Lei parla di fascismo, perché non parla di totalitarismo? You know, totalitarianism is I don't think that is what we're seeing. I don't think every aspect of society. Beh, non penso che il totalitarismo sia quello a cui stiamo assistendo. Non penso che ogni aspetto della società sia pervaso dal potere statale. Non penso che sia quello che sta succedendo. Penso che sia più complesso di così. Quindi, Hannah Arendt guardava ad alcune formazioni del XX secolo e ora dobbiamo chiederci, qual è la nostra formazione contemporanea? È quello che sto vedendo. Non penso che abbiamo regimi fascisti in piena regola, sapete? Non sto dicendo che l'Italia è fascista o che gli Stati Uniti sono fascisti. Quindi, no, non la penso così. Ma penso che dobbiamo chiederci, qual è l'attuale orientamento sociale e psicologico nei confronti di coloro che sono più vulnerabili, e sto cercando di descrivere l'attacco alle comunità vulnerabili. Da dove viene? Cosa pensano di fare le persone? E com'è possibile che queste comunità vengano descritte anche come una minaccia fondamentale per la nazione e la società come la conosciamo? How is it that these communities are also described as somehow posing a fundamental threat to the nation or society as we know it? Se l'Italia non ha uno stato fascista, ci sono comunque forme fasciste nel suo governo e nel suo establishment? I think some of the policies towards migrants, towards trans people. Penso che alcune politiche nei confronti dei migranti, delle persone trans e dei genitori gay e lesbiche siano tendenze fasciste. Quindi la democrazia ha un pregiudizio nelle sue regole che permette alle forme fasciste di crescere all'interno delle istituzioni e della struttura democratica? It can happen that we have democratic structures, but we have fascist. Può succedere che avendo strutture democratiche ci siano forme fasciste che si sviluppano all'interno di quelle strutture e forse non li riconosciamo come fasciste. Tipo, oh ok, perché queste persone dovrebbero avere diritti? E pensiamo di avere una conversazione razionale, ma in realtà c'è un immaginario, c'è l'idea che verremmo distrutti se queste persone avessero dei diritti. Una volta che inizi a dire, oh, se queste persone hanno dei diritti, i tuoi diritti verranno distrutti, se a queste persone viene concessa la libertà ti sarà tolta, qualcosa è sbagliato. Dobbiamo vivere in un mondo in cui tutti abbiamo la stessa libertà. E quindi gli argomenti o le fantasie che permettono alle persone di pensare, oh, possiamo privarli dei loro diritti, possiamo lasciare che queste persone muoiano, possiamo privarle dell'assistenza sanitaria, se iniziamo a pensare che ciò sia razionale, allora abbiamo perso il nostro profondo senso dei valori democratici. Quindi questo è ciò che mi preoccupa. Posso chiederle di commentare le proteste universitarie per la Palestina? Le proteste universitarie negli Stati Uniti in particolare sembrano essere le proteste più efficaci, gli atti di maggior impatto avvenuti finora. Sono passati 7 mesi di genocidio. Ciò che stanno facendo nelle università statunitensi è grandioso, ma è anche un po' coloniale. Tanto che abbiamo ancora bisogno della scintilla per la rivoluzione, della scintilla per opporsi a un genocidio che inizi nelle università statunitensi? Of course, you are right that if students were protesting in the global south or in East Asia, would it have the same news coverage? No. But it's not just colonial, it's also elitist. It's Columbia, it's Princeton, it's Yale, it's Harvard, it's, you know, these are the major, and Berkeley, public, but elite. You know, these are elite structures. Naturalmente hai ragione nel chiederti se gli studenti protestassero nel sud del mondo, nell'Asia orientale, avrebbero forse la stessa copertura giornalistica? La risposta è no. Ma non è solo coloniale, è anche elitario. È la Columbia, è Princeton, è Yale, è Harvard. Queste sono le major e Berkeley, pubblica, ma d'élite. Queste sono strutture d'élite. Quindi è importante, ma dobbiamo ricordare quanto siano importanti i finanziamenti statunitensi per l'esercito israeliano. Se gli Stati Uniti cominciassero a perdere il consenso sul finanziamento dello Stato di Israele, allora le cose potrebbero cambiare. Quindi quegli studenti stanno rendendo udibile la richiesta di giustizia. E non possono cambiare il mondo, ma possono istituire la solidarietà e sfidare il consenso presunto. E infatti, se si guardano i sondaggi negli Stati Uniti a questo punto, i più giovani sostengono in stragrande maggioranza il diritto dei palestinesi a vivere in libertà e ad avere diritti di autodeterminazione politica. Quindi, questo è un momento importante. Ora dirò questo, che a volte c'è una retorica antisemita nei campus e alcuni studenti o altre persone che si sono unite a loro, non sono abbastanza attenti a quello che dicono. Dobbiamo quindi opporci all'antisemitismo e non possiamo lasciare che la critica a Israele diventi una retorica antisemita. D'altra parte, c'è chi dice che qualsiasi critica a Israele è antisemita e dobbiamo dire loro no. Quindi dobbiamo combattere da entrambe le parti. On the other hand, there are those who say any criticism of Israel is anti-Semitic and we have to say no to them. So we have to fight on both sides.